¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Jamás sentí en el alma tanto amor, y nadie más que tú me amó. Por ti reí, lloré, renací, cambié lo que tuve, di por tenerte aquí. Ya sé que despedirnos es mejor, sufriendo pagaré mi error. Ya nada será igual, lo tengo que aceptar y hallar la fuerza en mí para este adiós. Aléjate, no puedo más. Ya no hay manera de volver el tiempo atrás. Olvídate de mí y déjame seguir a solas con mi soledad. Aléjate, ya dime adiós y me resignaré a seguir sin tu calor. Y jamás entenderé qué fue lo que pasó. Si nada puedo hacer, aléjate. Voy a arrepentirme del ayer, amándote y ser mujer. Por el amor aquel, por serte siempre fiel, hoy tengo que ser fuerte y aprender. Aléjate, no puedo. Ya no hay manera de volver el tiempo atrás. Olvídate de mí y déjame seguir a solas con mi soledad. Aléjate, ya dime adiós y me resignaré a seguir sin tu calor. Y jamás entenderé qué fue lo que pasó. Si nada puedo hacer, aléjate. Aléjate, no puedo. Ya no hay manera de volver el tiempo atrás. Olvídate de mí y déjame seguir a solas con mi soledad. Aléjate, ya dime adiós y me resignarías seguir sin tu calor. Y jamás entenderé qué fue lo que pasó. Si nada puedo hacer, aléjate. Thank you. ed anche un po' dentro di me. Che assurdità questa città senza persone. Io non so spiegare neanche come, ma non è questa la mia dimensione, è la mia mente, non è mai in pace, è sempre altrove, tu dove sei, la tua voce dove, senza di te, senza il tuo aiuto, che sarà di me? Invidia o rabbia che sia, qui nel mio cuore non voglio più queste parole. Tu dove sei? Il tuo sorriso dove? Senza di te, senza il tuo amore, che sarà di me? Sembrerà migliore alla luce che verrà dal sole. Questa notte passerà, il buio che c'è si dissolverà. Thank you. sosse sia magia o realtà. Ma se tu fossi nella mia anima un giorno, sapresti cosa sento in me. Da quell'istante insieme a te, ciò che provo è solamente amore. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Piccoli passi che faccio con te, seguo il tuo cuore, seguo la luna, così nascosta lontana da me. Il mondo gira con noi questa notte, ah, esistesse lontano da qui un posto dove scoprire il mio cuore, sapere se lui può amarti o no. E girerà il cuore mio assieme a te, e girerà. Giri con me questa notte, sei tu che giri lontana da qui, ma sì, io so che tu sei la mia luna, qualcosa mostri, qualcosa no. Ci sono strade azzurre nel cielo, ci sono occhi e il cielo è già lì. Sì, questo credo che siano le stelle. Ah, se potessi fermarmi così, e girerà il cuore mio lontano. Girerà la terra, girerà la mia vita, e un giorno lui sì, si capirà. La luna potessi scoprirlo nel cielo. Oh, say for certain. Maybe you're still here. I feel you all around me, your memory so clear. Deep in the stillness, I can hear you speak. You're still an inspiration. Can it be that you are mine forever, love? And you are watching over me from up above. Fly me up to where you are beyond a distant star. Faith believing all power can't be seen. As my heart holds you just one beat away, I cherish all you gave me every day. 'Cause you are mine forever, love, watching me from up above. And I believe that angels breathe, and that love will live on and never leave. Fly me up to where you are beyond the distant star. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Ecco oramai il momento temuto da tempo, sai, già so quello che mi dirai, è la fine di noi. So che con lui tu ti senti più libera di essere, di volere, di prendere, di contare di più. Che sciocco io che ti ho dato tutto di me. Ora che vai, stai portando il mio cuore con te. L'amore per sempre dura solo un istante. Sono tanti ricordi che svaniscono in te. Resta forse quel sogno, di amanti, ma alla fine vai via. Penso deserto di lacrime, sento il cuore affogare in me, mentre tu sei con lui. Dicono che non si muore in amore, non perdi mai, io mi sento morire ormai, vuoto dentro di me. So pure che dovrei essere felice per te, ma mentirei perché voglio che resti con me. L'amore per sempre dura solo un istante. Tanti ricordi che svaniscono in te, resta forse quel sogno, una storia di amanti, ma alla fine ti perdo. Solo un istante, sono troppi ricordi che svaniscono in te. Resta qualche momento, forse solo un istante, ma alla fine vai via. Summer's day, with eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills, sketch the trees and daffodils, catch the breeze and the winter chills, in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue, morning fields of amber gray, weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left inside, on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. You

assente inaridita, come fosse sabbia asciutta tra le dita, e l'assente già finita. Intanto alla vita, negli occhi tuoi riflessa, fragile infinita, terra a noi promessa. Lasciarla mai da sola, da sola ancora. Canto alla vita, alla sua bellezza. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. I know you're gone, I watched you leave, I always thought that it was me, you made it clear. With that last kiss, you couldn't live a life with maybes and what ifs. When every boat has sailed away and every path is marked and paved, when every road has had its say, then I'll be bringing you back home to stay. I have the cards you sent to me, you wrote of trains and Paris galleries. This spring you'll draw canals and frescoed walls. Look how far your dreaming's gone. When every town looks just the same, when every choice gets hard to make, when every map is put away, then I'll be bringing you back home to stay.